Capitolo 150. Ila, Amico e Fineo. Obbedendo alla sfida lanciata da Eracle, gli Argonauti si impegnarono in una gara per vedere chi potesse vogare più a lungo. Dopo molte ore di fatica alleviata dal suono della lira di Orfeo, soltanto Eracle, Giasone e i Dioscuri continuarono a vogare di lena. I loro compagni a uno si erano dichiarati battuti. Le forze di Castore cominciavano a venir meno e Polideuce, che non aveva altro modo per indurlo a desistere, imbarcò il proprio remo. Giasone ed Eracle, frattanto, spingevano largo con le braccia robuste, seduti alle due estremità della nave. Quando raggiunsero la foce del fiume Chio nella Misia, Giasone svenne e subito dopo il remo di Eracle si spezzò. L'eroe si guardò attorno con rabbia e disgusto. E i suoi compagni, esausti, infilati di nuovo i remi nei fori, spinsero largo sulla spiaggia presso la riva del fiume. Mentre si preparavano al pasto serale, Eracle andò in cerca di un albero che potesse fornirgli un nuovo remo. Sradicò un enorme abete, ma quando l'ebbe trascinato al campo per sfrondarlo, gli dissero che il suo scudiero, Ila, si era allontanato un paio d'ore prima per attingere acqua dalla vicina fonte di Pege e non aveva fatto ritorno. Polifemo aveva già iniziato le ricerche. Ila era stato l'amante diretto di Eracle sin dal tempo della morte di suo padre, Teodamante, re dei Driopi, che Eracle aveva ucciso vedendosi rifiutare il dono di un bue. Gridando «Ila! Ila!» Eracle si inoltrò nel bosco e ben presto incontrò Polifemo che gli disse «Ahimè!» Udì Ila invocare aiuto e corsi là donde veniva la sua voce, ma quando raggiunsi la fonte Pegea non vidi tracce di lotta con animali feroci o altri nemici. Vi era soltanto l'anfora per l'acqua che giaceva al margine della fonte. Eracle e Polifemo continuarono le ricerche per tutta la notte e costrinsero ogni misio che incontravano a unirsi a loro, ma invano. Infatti, Driopa e le sue sorelle ninfe di Pege si erano innamorate di Ila e l'avevano indotto a seguirle in una grotta sott'acqua. All'alba si levò un vento favorevole e poiché non si vedeva nemmeno l'ombra di Eracle e di Polifemo, sebbene tutti li chiamassero a gran voce e l'eco dei loro nomi volasse tra le colline, Giasone diede l'ordine di riprendere il mare. Alte proteste si levarono contro questa decisione. E mentre Largo si allontanava dalla riva alcuni argonauti accusarono Giasone di aver abbandonato Eracle per vendicarsi della sua vittoria nella gara dei remi. Cercarono persino di indurre Tifide a invertire la rotta, ma Calaide e Zete si interposero e per questa ragione Eracle in seguito li uccise sull'isola di Teno, dove pose una pietra Logan sulle loro tombe. Dopo aver minacciato di distruggere la Misia se i suoi abitanti non lo aiutavano a cercare Ila, vivo o morto che fosse, e dopo aver compiuto con successo una spedizione contro Troia, Eracle riprese le sue fatiche. Polifemo invece si stabilì presso Pege e fondò la città di Crio, dove regnò finché i Calibi lo uccisero in battaglia. In nome di Eracle, i Misii ancora oggi fanno sacrifici a Ila nella città di Prusa, presso Pege. I loro sacerdoti invocano tre volte il nome di Ila e poi fingono di cercarlo nei boschi. Ila in verità subì il medesimo destino di Bormo o Borimo, figlio di Upio, un giovane mariandino di straordinaria bellezza che un giorno al tempo del raccolto andò ad attingere acqua per i mietitori. Anche egli fu attirato in un pozzo dalle ninfe e nessuno lo vide più. Il contado della Bitinia celebra il suo ricordo ogni anno al tempo del raccolto con canti lamentosi e accompagnamento di flauti. Altre perciò ridono alla leggenda di Ila e dicono che in realtà egli si chiamava Bormo e che Eracle fu abbandonato ad Afeta di Magnesia nei pressi di Pagase quando scese a terra per far provvista d'acqua poco dopo l'inizio del viaggio. La figura oracolare che ornava la prua del largo, infatti, aveva annunciato che Eracle era troppo pesante e la nave non lo poteva portare. Altri ancora invece dicono che non soltanto egli raggiunse la Colchide con i compagni, ma addirittura che comandò la spedizione degli Argonauti. In seguito Largo toccò l'isola di Beberico, anch'essa nel Mar di Marmara, dove regnava l'arrogante re Amico, un figlio di Posidone. Codesto Amico si vantava d'essere un gran pugile e usava sfidare gli stranieri che invariabilmente venivano sconfitti. Ma se rifiutavano di battersi, Amico, senza troppi complimenti, li gettava in mare, dall'alto di una roccia. Amico andò incontro agli argonauti e negò loro cibo e acqua se non si fossero misurati con lui. Polideuce, che aveva vinto le prove di pugilato ai giochi olimpici, subito si fece avanti e infilò i guanti di corregge che Amico gli offriva. Amico e Polideuce iniziarono il pugilato in una valletta fiorita non lontana dalla spiaggia. I guanti di Amico erano irti di punte di bronzo e i muscoli delle sue braccia pelose parevano scogli coperti di alghe. Egli era di gran lunga il più pesante e il più giovane, ma Polideuce, combattendo con cautela all'inizio e schivando le cariche brutali dell'avversario, ben presto si rese conto dei punti deboli della sua difesa e riuscì a fargli sputar sangue dalla bocca tumefatta. Dopo una prolungata serie di assalti durante i quali nessuno dei due pugili diede segno di stanchezza, Polideuce infranse la guardia di Amico, gli appiattì il naso con un potente sinistro e riuscì a piazzare un paio di uncini alla mascella. Reso furibondo dal dolore, Amico agguantò il pugno sinistro di Polideuce e lo tenne fermo mentre vibrava un destro. Ma Polideuce si scostò bruscamente, evitò il colpo e rispose con un destro all'orecchio, seguito da un montante così irresistibile che fracassò la tempia di Amico e lo uccise all'istante. Quando videro il loro re giacere morto al suolo, i bebrici diedero di piglio alle armi, ma gli esultanti compagni di Polideuce li respinsero con facilità e saccheggiarono il palazzo reale. Per placare Posidone, padre di Amico, Giasone offrì allora in olocausto 20 tori fulvi che facevano parte del bottino. Gli argonauti ripresero il mare il giorno seguente e approdarono a Salmidesso, nella Tracia orientale, dove regnava Fineo, figlio di Agenore. Egli era stato accecato dagli dèi perché profetizzava il futuro con troppa esattezza, e inoltre un paio di arpie non gli davano requie. Queste odiose creature alate entravano svolazzando nel palazzo all'ora dei pasti e rubavano il cibo alla tavola del re, insozzando il poco che rimaneva così che fosse fetente e immangiabile. Un'arpia si chiamava Aellopoda, l'altra Ocipeta. Quando Giasone chiese a Fineo come avrebbe potuto impossessarsi del vello d'oro, il re gli rispose: «Prima liberami dalle arpie». I servi di Fineo frattanto preparavano un banchetto per gli argonauti e subito le arpie piombarono sulle tavole. Calaide e Zete, gli alati figli di Borea, si levarono con la spada in mano e inseguirono le arpie nell'aria, facendole fuggire lontano al di là del mare. Alcuni dicono che essi raggiunsero le arpie alle isole Strofadi, ma risparmiarono le loro vite quando i mostri implorarono pietà. Infatti Iride, messaggera di Era, intervenne e promise che le arpie sarebbero ritornate alla loro caverna del Ditte in Creta e mai più avrebbero molestato Fineo. Altri ancora dicono che Ocipeta si fermò in quelle isole, mentre Aellopoda continuò a volare e annegò nel fiume Tigri del Peloponneso, che ora si chiama Arpide, in ricordo di lei. Fineo spiegò a Giasone come navigare sul Bosforo e gli predisse esattamente quali venti, quale ospitalità e quale sorte l'avrebbero atteso lungo la rotta per la Colchide, una regione colonizzata dapprima dagli egiziani che giace all'estremità orientale del Mar Nero, all'ombra delle montagne caucasiche. Infine aggiunse: «E quando giungerai in Colchide, raccomandati ad Afrodite». Ora Fineo aveva sposato dapprima Cleopatra, sorella di Calaide e di Zete, e alla morte di costei Idea, una principessa scita. Idea era gelosa dei due figli di Cleopatra e assoldò falsi testimoni per accusarli di ogni sorta di malvagità. Calaide e Zete, tuttavia, scoperto l'inganno, liberarono i loro nipoti dal carcere, dove erano stati gettati dalle guardie scite, e Fineo non soltanto li colmò di onori, ma rimandò Idea da suo padre. Alcuni dicono che Fineo fu accecato dagli dèi dopo la visita degli argonauti perché diede loro profetici consigli. Nella leggenda del viaggio degli Iolci verso Oriente, verso il Mar Nero, ma non però nella leggenda del viaggio dei Mini verso Occidente, verso l'Istria, è probabile che fosse Eracle a guidare la spedizione. L'episodio della sparizione di Ila fu inventato per spiegare i riti Mini, ancora praticati a Paro, presso Pege, ai tempi di Roma, riti coi quali si piangeva la morte di Adone Boschereccio. La morte di Ila per mano di Driopa e delle sue ninfe è paragonabile alla morte di Leucippo, di Atteone, di Orfeo o di altri re del culto della Quercia. Essi venivano fatti a pezzi e divorati da donne invasate, che poi si purificavano nelle acque di una sorgente e affermavano che il re sacro era misteriosamente scomparso. Driope significa picchio, letteralmente faccia di quercia. Questo uccello, battendo insistentemente col becco sul tronco delle querce, pareva suggerisse l'idea della ricerca affannosa di Ila e si diceva inoltre che preannunciasse la pioggia. Infatti lo scopo principale del sacrificio umano era di provocare le piogge autunnali. Eracle, come nuovo re, doveva fingere di associarsi alla ricerca del suo predecessore. Bormo, o Borimo, è forse una variante di Brimo, figlio di Brimo. La leggenda di Amico fu forse tratta da una raffigurazione dei giochi funebri celebrati dopo la morte del vecchio re, gettato in mare da un promontorio. Il pugilato, uno sport cretese di cui si parla nell'Iliade e nell'Odissea, pare fosse praticato in modo molto pulito e leale, finché le rivalità accesesi durante i giochi olimpici non sfociarono nel professionismo. I pugili negli anfiteatri romani usavano guanti chiodati e pugni di ferro e non i tradizionali guanti di corregge. Teocrito, nel suo sagace commento alla gara tra Amico e Polideuce, rimpiange le antiche glorie del pugilato. Le arpie erano in origine personificazioni della dea cretese della morte, ma in questa leggenda ci appaiono come uccelli sacri, nibbi o strigi, cui i traci offrivano regolarmente cibo. Diodoro Siculo, quando descrive la visita degli argonauti alla corte di Finio, evita accuratamente di parlare delle arpie, forse per timore di incorrere nella loro ira. Tuttavia lascia cadere l'ipotesi che la seconda moglie del cieco Finio, una donna scita, ordinasse alle sue ancelle di insozzare i cibi posti sulla tavola del re, inventando poi la storia delle arpie per trarlo in inganno. Finio stava lentamente morendo di fame quando Calaide e Zete, i fratelli della sua prima moglie, scoprirono le malvagie manovre della regina e liberarono i loro nipoti rinchiusi in carcere. Le isole Strofadi, che girano, sono così chiamate perché le navi si aspettavano sempre che il vento girasse quando vi si avvicinavano. Le pietre Logan, enormi massi così ben bilanciati che oscillavano al minimo tocco, sono monumenti funebri, a quanto pare eretti dai migranti libici costruttori di strade verso la fine del terzo millennio avanti Cristo. Se ne trovano ancora alcuni nella Cornovaglia inglese e nel Devonshire, altri sono stati spostati dal concorde sforzo di turisti sfaccendati. Il fatto che un Logan fosse stato dedicato a Calaide e a Zete, gli alati figli di Borea, lascia supporre che si invocassero gli spiriti di quei morti eroi affinché, facendo oscillare la pietra sotto forma di venti, schiacciassero una vittima posta lì sotto.